America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. I'm pleased to announce America's newest high-tech manufacturing hub. Barack Obama ha parlato ieri a Raleigh, in North Carolina, continua la sua lunga marcia per il rilancio del manifatturiero in America, una marcia che era cominciata in Ohio in campagna elettorale nella tarda estate del 2012. Ebbene, il presidente ha poi deciso di lanciare un'iniziativa per il settore manifatturiero, dei manufacturing hub, dei poli manifatturieri, ed è partito a Youngstown in Ohio per poi arrivare a Raleigh in Carolina del Nord, dove appunto lo ha annunciato ieri. Il primo era dedicato alla ricerca, progettazione e distribuzione di stampanti tridimensionali, questo dei semiconduttori ad altissima resistenza che consentono di diminuire l'utilizzo di energia in gadgets tipo telefonini, tipo iPad, tipo televisori, e quindi di risparmiare addirittura fino al 90% dell'energia. È un progetto ancora sperimentale, ma il messaggio è chiaro: il manifatturiero non è più quello tradizionale, il manifatturiero è quello che unisce ricerca federale, ricerca dell'università e aziende che poi possono usare questa ricerca per guardare verso il futuro. Barack Obama vuole aprire 45 di questi poli manifatturieri intorno al paese. È un messaggio importante anche per noi, la sfida per l'America di tenere il passo con la concorrenza mondiale, la sfida nostra è la stessa, è inutile che ce lo nascondiamo. Intanto il manifatturiero in America ha fatto negli ultimi anni 550.000 posti di lavoro e soltanto negli ultimi 4 mesi 80.000, ma il manifatturiero non è soltanto quello che nasce da un'iniziativa, come dire, dell'amministrazione ad alto livello. Il manifatturiero nasce anche in modo più normale, vecchio stile, attraverso magari un venture capital e soprattutto a Detroit. Germana, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei è venuta qui a fare orologi a Detroit? Mm-hmm, sì. E come mai? Allora, questa è una... è un partner ronda della Svizzera, mm-hmm, e quindi siamo venuti a vedere, a collaborare, un'esperienza per noi anche, e quindi stiamo conoscendo nuovi prodotti, nuovi... Quindi aiutate anche a fare training, addestramento per le persone qui a Detroit? Se qualora ce ne fosse bisogno, può essere, sì. E dunque a Detroit, sentito, ho trovato una giovane italiana, germana, che lavora, pensate, in una fabbrica di orologi, e direi più manifatturiero di così si muore, perché questa nuova fabbrica d'orologi si chiama Shinola intanto, ed è, pensate, la prima fabbrica di orologi che ha aperto in America dopo 45 anni. La Hamilton, l'ultima grande fabbrica di orologi in America, ha chiuso perché non ce la faceva più circa 45 anni fa. E qui riparte l'avventura, riparte dall'orologio, riparte dal manifatturiero puro, riparte da 46 meccanismi che vengono importati dalla Svizzera e che devono essere montati in questo orologio, in questo laboratorio che è piuttosto grande. Ci sono andato, si entra in camice bianco, si vedono tutte le persone che lavorano con le pinzette e con straordinaria precisione costruiscono questi orologi. I meccanismi vengono poi inseriti in una cassa e il quadrante è rotondo con un doppio cerchio, direi molto suggestivo, molto retro. Come nasce l'idea di questa fabbrica? Sentiamo Peter, che è uno dei dipendenti della fabbrica. Detroit has a really long tradition of manufacturing assembly lines. Ecco, Peter mi dice che Detroit ha un'antica tradizione industriale di linee di assemblaggio, di esperienza meccanica, dunque qui sanno fare le cose al meglio, e i due fondatori di questa società, che sono due fratelli, si chiamano Tom e Kozza Kartsotis, hanno creato una società di venture capital che si chiama Bedrock a Dallas, e con questa società hanno cominciato a investire in America. Hanno deciso di fare gli orologi, hanno acquistato il marchio di questa antica fabbrica che stava upstate New York, che faceva lucido da scarpe, e hanno comprato questo marchio perché era un marchio molto suggestivo per la storia del consumismo americano, e fanno non soltanto orologi, fanno anche biciclette, poi faranno anche lucido da scarpe e altri prodotti cosmetici e così via, così via. Ma è un tipico esempio di come da un'idea e da un venture capital, ecco, si passa all'azione. Perché Detroit? Perché gli affitti sono bassissimi, perché c'è una qualità di gente pronta a lavorare altissima, perché c'è uno spirito imprenditoriale e creativo molto forte. Dove sono andati questi signori della Scinola in una palazzina che si chiamava Argonaut e che adesso si chiama Alfred Taubman Design Center, che è subito dietro i vecchi quartieri generali della General Motors. Questa Argonaut, questa palazzina disegnata tra l'altro da Kahn, che è lo stesso architetto di cui parlavo ieri, che ha disegnato il Detroit Athletic Club, quello che è come il palazzo Farnese, dicevo, in questa palazzina ai primi quattro piani c'è una scuola, in mezzo al quinto piano c'è la fabbrica di orologi, gli ultimi piani c'è una School of Design a livello universitario, che è una delle più avanzate negli Stati Uniti. Ecco, e da questa combinazione, oltre che dalle combinazioni più ad alta tecnologia di cui ci ha parlato Barack Obama, che il manifatturiero americano sta davvero trovando un momento di rinascimento. 100 posti di lavoro per ora con questa fabbrica, 45.000 orologi all'anno, ma mi ha detto Peter, potrebbero arrivare in tempo breve fino a 500.000 di nuovi orologi all'anno. E questo orologio, questo Scinola, beh, è diventato un caso di consumo in America, perché l'americano, da una ricerca di mercato che hanno fatto, è pronto a pagare $3 se un prodotto è made in China, $6 se è made in America, ma $9 made in Detroit, perché nonostante la città da un punto di vista finanziario sia in condizioni fallimentari, ha ancora questa immagine di grande città affidabile dal punto di vista della manifattura. I just called to say I love you. Stevie Wonder, Motown è un movimento musicale, è un marchio musicale che è nato a Detroit tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 e ha avuto un successo straordinario, una gran quantità di artisti. I just called to say I love you. C'è un'altra persona che ha alzato il telefono e ha chiamato Detroit con un gesto di grande amore, si chiama Dan Gilbert, un altro esempio di ritorno alla città, questa volta non di manifatturiero. Dan Gilbert ha fondato una società negli anni 80 che si chiama Quick and Sloan. Cosa ha fatto? Approfittando della crisi ha acquistato una gran quantità di palazzi, li ha rimessi a posto, ha riportato i suoi 8.000 dipendenti al centro di Detroit. Questi 8.000 dipendenti, molti, età media abbastanza bassa, giovani, hanno cercato casa in città. Anche questo è un modo per ripopolare Detroit. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Detroit, ve l'ho detto, è una città fondamentale per la musica. Motown, artisti come Jackson 5, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Diana Ross, per arrivare fino a Eminem, anche lui di Detroit. Insomma, la città è una città straordinariamente interessante e ricca, al di là del settore auto. E dunque, vi propongo di Marvin Gaye, What's Going On? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.